Abbiamo voluto, voluto affrontare il problema della, della manovra, prima di un attivo, anche perché va bene, abbiamo cominciato ad affrontare le tematiche, ci sembrava utile approfondire la questione sulla manovra, ma innanzitutto analizzando i contenuti per comprendere meglio e per saper affrontare poi anche eventuali discussioni. Poi anche il nostro obiettivo è anche quello di fare un'analisi sulla manovra, ma sul contesto nazionale e chiaramente internazionale, ma soprattutto indicato che per noi ha la manovra sul fatto che comunque questa manovra, come noi riteniamo, non risolve la crisi, ma anzi mai peggiorerà la situazione, che togliere anche i dubbi sul fatto che niente si può fare di diverso da questa manovra. Spesso si sente in giro nelle cose male da fare, così come se la manovra, se questo tipo di scelte non si possa fare altro che questo. Poi la crisi, come abbiamo visto anche negli altri incontri che avevamo fatto, chiaramente è usata per far passare tutti questi provvedimenti sempre sulle spalle delle solite persone. Per cui l'obiettivo di questa sera è discutere insieme, approfondire, ma allo stesso tempo, se mi pare politico, anche poi discutere sul che fare e chiaramente vedere tutti insieme come affrontare la situazione. Poi, visto che tutto, ci sono stati degli sviluppi in questi giorni sulla situazione come città, poi Donato già che siamo qui vi illustrerà cosa è successo in questi giorni per la questione elezioni amministrative. Due cose volevo dire. Una sulla nostra partecipazione chiaramente a tutte le manifestazioni che sta facendo il sindaco, perché chiaramente siamo lì che dobbiamo stare, per cui anche lunedì saremo al presidio come lo siamo stati in questi giorni. Un'altra cosa, abbiamo aderito alla manifestazione antirazzista per quello che sta avvenendo di grave in questi giorni, quello che è avvenuto a Torino, quello che è avvenuto a Firenze, che non sono cose che succedono a caso, ma tutto il clima di che vedi anche la Lega, che adesso che nonostante tutto si sta facendo il lifting, però la Lega fino adesso, oltre a aver fatto parte del governo, ha fatto una manovra altrettanto come quelle di quello che vedo adesso, fino a poco tempo fa, non so se avete visto, c'era stato un presidio anche fuori dal centro culturale, per cui è una grossa responsabilità anche della Lega su questo clima, ma non altro, anche perché chiaramente la destra noi abbiamo incontri di milizia e la persona che anche delle sedi di Forza Nuova, per questo è giusto aderire anche con decisione a questa manifestazione, perché si inserisce secondo anche in questo contesto. Un'altra cosa, io vorrei esprimere qui, che sono venuti tutti, anche solidarietà ai tre lavoratori della ferrovia che stanno manifestando per la loro. Ecco, per quanto riguarda la manifestazione, è alle 3 di domenica pomeriggio a Piazza Vittoria. Adesso passerei la parola a Lucia Cassina, segretaria della Camera. segretario regionale che avrebbe contribuito al dibattito. Domande mi piedi? No, lasciami faccia per lasciarmi i fogli sparsi, che praticamente sono fogli aggiornati di loro in ora e di conseguenza ne ho migliaia di fogli ormai per me. Ma io cercherò con la mia relazione di dare anche alcuni elementi tecnici, perché volevo, perché mi sembra molto importante anche andare ad approfondire non solo quello che stanno strillando i giornali, tutto spiano, o quelle che sono le manovre più, diciamo, eclatanti di cui la pensione è la grossa parte, ma anche tutto il resto delle pieghe, delle regalie che fanno le banche piuttosto che i soliti nomi e che stanno passando in qualche modo in sordina perché c'è questo eco su altre questioni. E per cui io ho pensato appunto di fare una relazione che nel tecnico diventa politico, nel politico diventa tecnico, proprio perché mi sembrava importante. Perché una volta che dicono a platea come la vostra che questa manovra, una manovra fascista, una manovra vergognosa rispetto a quello che è l'Italia e i modi di soluzione, di non soluzione che questa manovra propone, mi sembra di dire una platea molto consapevole e di conseguenza di arrivare a rischiare, di annoiare rispetto alle cose. Invece il discorso che volevo iniziare a fare era un discorso che diceva proprio cosa e perché questa manovra che non ha niente di democrazia, ma invece tutto di tendere sempre di più la nostra società verso un monopolio capitalistico che però tra l'altro si sta autostruzzando, perché una manovra come questa, miope, che prevede una politica di soli tagli senza in alcun modo una politica di rilancio, di sviluppo, è una manovra così fortemente depressiva che non può far altro che accrescere quello che è la crisi e chiamare con sé un'ulteriore, sempre più pesante manovra. Perché quando tu vai e tagli fino a un certo punto, se ci sono degli sprechi, se ci sono delle cose, se ci sono i famosi rami secchi, è solo un bene per la pianta, ma qua ormai stanno tagliando quello che è la linfa vitale e quando tu tagli la linfa vitale la pianta muore ed è questo che stanno facendo. Purtroppo però chi muore della pianta? Moriamo noi, non muoiono di sicuro loro, questo è il problema di fondo. Ecco perché io mi arrabbio molto quando, lo sto dicendo in tutte le assemblee che sto facendo sui posti di lavoro, quando sento dire no, ma questo almeno è un governo presentabile, aspettiamo e vediamo che cosa succede. Allora, del fatto che un paese abbia bisogno di un governo normale, presentabile, secondo me non è una vittoria, dovrebbe essere la base di ogni paese democratico. Un governo normale e presentabile, non quella cosa innominabile che era stato il governo fino adesso. Tra l'altro, e anche questo viene spesso dimenticato, l'attuale Parlamento è lo stesso Parlamento di prima. E di conseguenza non è che togliendo Berlusconi abbiamo cambiato chi fino adesso ha governato l'Italia. Sono esattamente le stesse persone, con le stesse teste e con lo stesso modo di agire. E di conseguenza, d'accordo che eravamo tutti contenti che fosse caduto Berlusconi, però non era finita lì e lo sapevamo assolutamente tutti. Seconda cosa che non condivido assolutamente è questo discorso di dire aspettiamo, lasciamoli lavorare, questi sono tecnici. Allora, al di là che io rivendico fortemente l'azione politica e non solo tecnica, perché è tecnico, allora possiamo mettere una calcolatrice che è più tecnico ancora di un tecnico, ma ogni azione deve essere politica, perché non c'è nessuna azione che sia di tipo tecnico che non abbia un percorso mentale politico, perché tu hai lo stesso risultato, puoi arrivare in più modi. E siccome il risultato era di ridurre quello che era il deficit, secondo quanto è stato chiesto dall'Europa, ecco che allora la scelta che è stata fatta non è una scelta tecnica, cosa fantastica che abbiamo in Italia, cambiamo le sigle, sembra che cambi l'universo mondo e non solo la sigla, o il nome della professione che uno fa. Magari se sei una persona non più spazzino, un operatore ecologico, comunque quel lavoro pesante lo fa sempre. Però insomma abbiamo dato una visibilità di cartello, di immagini. Allora, l'IMU è questo, tassa sulle case, sulla prima casa, che prevede adesso un anno, ho fatto un aumento per quanto discorso della detrazione, perché si può detrarre anche 50 euro per ogni figlio, o sotto i 26 anni, è tutta bella questa storia dei 26 anni, perché poi mi dice qualcuno se a pochi 26 anni c'è il lavoro, perché a quanto ci risulta come sindacato, la media è oltre 30 anni, non ci si ferma a 26, per poter comunque cominciare a lavorare con un reddito che ti dà perlomeno la possibilità di sopravvivere. Fatto questo tipo di discorso di questa tassa sulla casa, scopriamo per esempio una cosa assolutamente strana, che la tassa sulla seconda casa, se è un reddito di 100.000 euro, ha con questa operazione delle tasse sulla casa una tassa più bassa di quella che aveva fino adesso. E questo mi piace molto, perché le pieghe, le famose pieghe che vi sto dicendo, sono quelle che sui giornali poi non accorgi che ci sono. Però calcoli alla mano, se tu sei a un reddito alto e hai una seconda casa, paghi meno perché viene assorbita dall'IMU, viene assorbita l'IRPEF che pagava sulla casa e di conseguenza viene a pagare meno. Questa per esempio è già una bella storia, ma questa bella storia è anche quella per cui stanno abbassando le superbollo delle auto e delle barche. Tra parentesi, questa cosa che mi piace molto è il discorso che hanno scoperto che circa il 40% di coloro che devono pagare il superbollo per superauto dichiara un reddito di circa 20.000 euro annui. Allora io dico, in un paese normale, quello famoso cui dicevo prima, magari immediatamente l'Agenzia delle Entrate insieme alla Finanza dovrebbe immediatamente scattare i controlli. Invece no, il nostro governo così bello, cosa presentargli e dice, no, diminuiamo un pochino le tasse, aumentiamo le tasse per le sigarette, perché quella è una cosa equa col discorso che un guaio per tutti significa che è una cosa equa, che è proprio il discorso più sbagliato che possa esserci in questa cosa. Vi sto dicendo appunto che sto vedendo le pieghe, perché le cose grandi, per cui il discorso delle pensioni, il discorso che noi come sindacato abbiamo la fila della gente davanti alla nostra scrivania che piange perché si trova la vita completamente sconvolta, che va sicuro che piange perché si trova la vita completamente sconvolta rispetto a prospettive di vario tipo che tenevano insieme la difficoltà di vivere oggi con il discorso delle relazioni parentali, donne che non possono più andare in pensione, nel frattempo pensavano di andare l'anno prossimo, nel frattempo i figli hanno avuto il nipotino, non c'è chi li cura, drammi familiari da sicuro, oltre al discorso di tipo economico, per cui questa della pensione non ve la racconto, poi se volete vi racconto anche tutte le cose, però era molto assolutamente chiara sui giornali di quello che succedeva. La cosa che mi interessa raccontare delle pensioni è per esempio il discorso dell'obbligatorietà per pensionati che prendono più di 500 euro di pensione ad avere un conto corrente bancario. Non è che poi però il conto corrente lo apri gratis, il conto corrente ha dei costi e di conseguenza questi pensionati dovranno pagare alle tasse. Allora, non solo noi aumentiamo le pensioni, il discorso di aumentare l'indigizzazione, cioè di reinserire l'aumento del pensionistico a partire dal 1400 al posto del 1936 che erano prima, vale solo per l'anno 2012-2013, poi basta, torniamo ai 936. Noi prendiamo addirittura quelli che sono più bassi nella scala pensionistica, quelli che prendono 500 euro al mese, li obblighiamo ad aprire il conto corrente, o bancario, o postale, però non gli diciamo chi paga le spese, per cui tu lo apri gratis, no, tu perché c'è il discorso che io te lo faccio aprire nel discorso del riciclaggio, proprio la storia che guardi la bruscolina e poi nel frattempo ti trovo. popolo alla casa dietro le spalle. E invece questo, chiaro, è un governo di banchieri che è anche che deve far pagare le banche, non comunque a fare i lavoratori. Scusa, ma i 1400 sono loro? Loro, loro di sì. I 500 invece sono me. No, no, non è ancora, non è ancora! No, attenzione, perché siccome l'INPS è ente pubblico, 1000 è per i conti correnti, ma siccome l'INPS è un ente pubblico, l'ente pubblico non può fare pagamenti di contanti diretti superiori a 500 euro. Per cui c'è solo un indico che qua vediamo con l'uncinato e vediamo. Adesso è stato approvato alla Camera, va al Senato, poi torna alla Camera, vediamo nel frattempo che cosa succede nei corridoi, perché sto avanti e indietro. Ma non solo c'è questo discorso, per esempio c'è tutto il discorso dello scudo fiscale. Lo scudo fiscale, che era già una ragione di per se stesso, perché non ho capito perché non abbiamo fatto l'accordo con la Svizzera che tassavamo, lasciavamo là i capitali in Svizzera, perché tanto qua comunque non rimarranno, e ci facevamo passare una percentuale delle tasse dalla Svizzera in Italia e avremmo dei soldi, una canalizzazione sicura di soldi. Invece che cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto no, bisogna portarli qua, bisogna portarli, all'inizio li dobbiamo tassare e c'era scritto che c'era la tassazione dell'1%, 1,5%. Adesso non è ben chiaro, ma quello che mi risulta è diventa, si somma quello che è lo 0,4 che c'era prima, si somma questo 1% per il 2012 e si aggiunge un ulteriore 1,35%, per cui alla fine è diventato meno di quello che ho capito. Cioè, dopo che noi abbiamo detto che è una vergogna che la tassazione di questi capitali è diventato ancora più basso rispetto a quello che era prima, per cui uno dice va bene, mi piacciono queste cose. Ma è come il discorso dell'IRPEF, è come per esempio il discorso dell'IRPEF. Voi sapete che c'era tutta la grossa discussione di tassare, di aumentare le tassazioni IRPEF dei lavoratori, guarda caso lavoratore dipendente, perché questo lo puoi fare sugli altri, non lo fai questo tipo di discorso. Doveva essere, a un certo momento ha detto no, assolutamente, noi siamo bravi, non tassiamo, non mettiamo l'IRPEF. Poi leggi ed accorgi che sì, magari a livello nazionale no, però è aumentata l'IRPEF addizionale regionale e di conseguenza si è passata all'1,23%, e questo 1,23% è retroattivo dal 1 gennaio 2011, per cui nelle nostre buste paga al mese di gennaio avremo anche da recuperare quello che è stato tutto l'anno 2011. Non commento. Altra cosa vergognosa è il discorso dell'IVA. Noi abbiamo visto tutti che il meccanismo che è successo con l'euro in Italia, che praticamente è stato una 1.000 lire, un euro, e di conseguenza abbiamo avuto il raddoppio del costo della vita in Italia, sta succedendo adesso con l'IVA, perché già con l'aumento dell'1% abbiamo registrato un aumento circa del 10% dei beni d'acquisto, circa del 10% dei beni d'acquisto. Secondo voi che fine farà un aumento del 2%? E poi io mi chiedo, ma al posto di aumentare l'IVA, perché non lasciano detrarre la IVA da chi presenta il 730 per tutti i lavori che vengono fatti? Quella potrebbe essere una lotta reale all'evasione, perché di lotta reale all'evasione fiscale qui non c'è assolutamente niente, perché a me fa ridere quando dico no, ma abbiamo inserito che noi andiamo a tassare le case che stanno all'estero di quelli che risiedono in Italia, perché secondo voi quelle case là sono intestate a chi risiede in Italia, non sono intestate a un prestanome di quelli che stanno adesso oggettivamente. Uno dice ma non, perlomeno non prendetemi in giro, faccio una persona di figli. Di conseguenza il discorso poi non è mica finito qui, perché l'altra cosa che mi fa molto paura è per esempio l'accorpamento tra con l'Inps e l'Ipda. Queste due grosse casse pensionistiche, una del settore privato, una del settore pubblico, l'Ipda è del settore pubblico, la scoperta del discorso quello dello spettacolo per residuare, porteranno piano ad avere un esubero del personale, già quello è chiaro, mi preoccupo come persona, sindacato, ma la cosa che mi preoccupa ulteriormente è che questa mega struttura avrà una potenza economica che sfiora quella della Banca d'Italia, e chi starà a capo di questa potenza economica sarà uno che potrà determinare le sorti dell'economia in Italia, perché non sa, diventerà una perché loro dicono no, ma insieme mettiamo, razionalizziamo. Questo non è un'operazione di razionalizzazione delle spese, attenzione, è un'operazione di costituzione di un ulteriore luogo di potere in Italia da spartirsi sempre per soliti modi, ed è pericolosissima. L'altra cosa che io mi rendo conto che sono tante, cerco di ridurre, però sono veramente tante le problematiche. Perché per esempio un'altra cosa, oltre al taglio di enti locali, di cui abbiamo già parlato in altre riunioni che abbiamo fatto, che sappiamo benissimo tutto cosa significa poi per i servizi, perché poi qualcuno mi deve dire come si riesce, specialmente donne, perché il lavoro di cura è tutto che ce lo nascondiamo, è ancora nostro, perlomeno in larga misura, è vero che si sta migliorando, però in larga misura è ancora nostro. Se non ci sono servizi, come le donne riescono a rimanere fino ai 66 anni sul posto di lavoro? Qualcuno me lo deve spiegare, però non sono in grado di spiegarlo. L'altra cosa che per esempio a me fa abbastanza arrabbiare tutto il discorso, e che conferma ancora una volta il discorso che facevo all'inizio, di come ci sono delle lobby intoccabili in Italia, di come questo governo non poteva assolutamente non fare una manovra che fosse iniqua. I farmaci. Voi avete notato tutti che i farmaci che sono adesso liberamente vendibili nelle parafarmacie all'interno dei supermercati hanno dei prezzi più bassi che quelli venduti fuori. Ora, era stato detto che bisognava liberalizzare tutti i farmaci. Bene, si è alzata l'AIFA, ha detto non se ne parla, infatti non se ne parla. L'AIFA deciderà quali farmaci dovranno essere liberalizzati, che vi fa un po' ridere perché è esattamente la stessa cosa del discorso non tocco gli ordini professionali. Non sapete che c'era scritto che bisognava togliere minimi agli ordini professionali, perché guarda caso da noi, a noi chiedono il libero mercato, essere disponibili, essere flessibili, essere innovativi, uno dice no, io voglio un contratto a tempo indeterminato, ma vedetelo, tu non sai, sei staccato dal futuro. E poi loro invece si mettono questo bel mantegolo, e se lo mantegolo ben strettamente, questa bella cosa dei tariffari minimi, che significa che non c'è libera concorrenza, perché sotto non puoi andare. E di conseguenza, e nel momento che è stato detto sotto si può andare, ai più utili e sotto non si va. E anche questo è una cosa che non funziona assolutamente. Il discorso poi, per esempio, della provincia, perché poi la cosa che così molto populista, che sta cavalcando la grande la Lega un po', però sbattendo destra, sbattendo sinistra, è per esempio il discorso delle province. Il discorso delle province che una volta le difende una volta le attacca. Improvvisamente sono diventate questi enti, degli enti tutti di bene, discutiamo come, perché e quando, ma discutiamo secondo regole che sono delle regole reali. Ma perché? Perché tagliando così, o veramente in Italia abbiamo mantenuto per anni e anni degli enti utili, però sono le stesse persone che comunque adesso stanno governando, ci devono spiegare per quale motivo non sono arrivati a una soluzione prima di adesso, o se no qualcosa fanno, allora bisogna capire questo qualcosa che fanno, chi lo fa, e soprattutto tutte le persone che poi rimarranno a spasso per l'accorpamento di questo settore, visto che in pensione non potranno più andare, perché per il meccanismo dell'uscita del pubblico impiego che ha visto uscire tutti coloro che fino agli anni 2000, tutti coloro che appena avevano possibilità erano usciti, adesso chi è dentro saranno proprio l'1% che potrà uscire nei prossimi anni, gli altri hanno tutto un'età o un'anzianità contributiva che rimane dietro, per cui qualcuno si dovrà far carico di queste persone. E poi soprattutto il perché erano state create e perché devono andare. Rispetto invece a un discorso che tutti compatti dal primo all'ultimo, nel momento che gli è stato detto che bisognava toccare i loro rendimenti e i vitalizi che loro prendono come pensionati dopo 5 anni di lavoro, tutti insieme si sono alzati con un solo uomo e hanno detto no, assolutamente non se ne parla, andremo a casa. Che è diverso il discorso del finanziamento e partite rispetto al discorso del quanto prendono individualmente le persone, perché mentre io sono assolutamente d'accordo sul finanziamento e con i partiti, non sono assolutamente d'accordo su mantenere quei vitalizi pensionistici che sono veramente delle regalie, specialmente non collegate all'attività che veramente svolgono, perché uno viene eletto, poi non si può anche presentare per tutti i 5 anni di legislatura e comunque avrà diritto alla pensione, perché non c'è nessuna formula di neanche abbattimento di quella che è la presenza sulla delle riunioni rispetto alle l'altra cosa, se volete vi racconto delle pensioni, ma penso che le pensioni lo sappiate tutto e non so, è abbastanza semplice. Invece volevo un attimo fissare l'attenzione anche su quello che manca. La patrimoniale. L'abbiamo chiesta in tutte le salse, l'abbiamo chiesta in tutti i modi, manca una patrimoniale seria. E questa manovra chi paga non siamo noi dipendenti, noi pensionati, noi persone che comunque hanno un reddito basso, non pagano assolutamente chi ha i grandi patrimoni. E di conseguenza è una manovra totalmente al di fuori. Di quelle che sono, che possono essere le logiche condivisibili rispetto alla norma. Manca qualsiasi investimento sui progetti innovativi, non c'è assolutamente niente rispetto a quello che può essere il rilancio dell'economia. Ora, quando avranno ben finito di tagliare, quando avranno lasciato la gente a casa, non hanno fatto nessuna legge sulla riforma degli ammortizzatori sociali, perché gli ammortizzatori sociali erano nati ma come voglio loro, però non come stiamo chiedendo noi, ulteriore taglio, che questi ammortizzatori sociali erano nati quando era una cosa eccezionale che servivano per tappare. Adesso va sicuro che senza di questi la gente sarebbe assolutamente in giro a chiedere la carità. E ogni maledetto anno dobbiamo stare lì fino all'ultimo momento per vedere, per esempio, se la tassa straordinaria in deroga viene fatta o non viene fatta. L'ultima, per esempio, per l'anno 2012 della Regione Lombardia è stata siglata il 6 dicembre con tutta la gente che era a livelli quasi di collasso, perché non si sapeva se si poteva mantenere il caso straordinario, se poteva andare a cassa straordinaria o cosa poteva andare, perché già il discorso di aver aumentato quello che è stato in politica ha portato ad avere grossissimi problemi per le uscite dal lavoro, perché come oggi con la carenza di lavoro noi giocavamo, per esempio, faccio un esempio su tutto, la sismi di Orgiate il secondo anno che è un contratto di solidarietà, c'era un pacchetto ulteriore di persone che dovevano uscire per far sì che non portassero la produzione, avete letto che non hai sui giornali come funzionava la cosa, e che cosa è successo? E sarebbero stati individuati queste persone che facendo la cassa integrazione poi sarebbero accusate alla pensione. Bene, con l'allungamento degli anni di questa pensione noi abbiamo dei punti, e per cui quello che era un accordo che era venuto prima una settimana fa, dal 1 gennaio non sono più valori. Il problema ci si pone fermamente, perché a questo punto avremo di nuovo una lotta dura contro il Consiglio d'amministrazione. Un'altra cosa su cui non si è fatto assolutamente niente, per esempio, la grande partita delle energie rinnovabili. Lo Stato non deve tagliare i fondi, lo Stato deve mettere fondi laddove ci sono tutte queste attività da lanciare. Lo Stato deve mettere fondi per sgravare i contributi le aziende che assumono a tempo indeterminato i loro lavoratori. Lo Stato deve essere quello che non fa cassaforte, ma fa interventi per il rilancio, non interspese come quelle che sono state fatte. un segnale, almeno un segnale l'avrebbe voluto tagliare le spese militari, che sono una vergogna, sia per tutto il concetto, appunto, che non sto a dire a voi cosa pensiamo delle spese militari, è comunque una vergogna, anche perché chiunque oggi sa benissimo che una guerra sarebbe una guerra nucleare, di conseguenza non servono neanche gli armamenti, strani, perché la prima bomba ci fa fuori tutti. Questo è la mala realtà che stiamo vivendo. E almeno io dico, quello avrei voluto vedere all'interno. L'altra, invece che cosa succede? Succede che arrivano gente come Carlo Marchione e le due altre organizzazioni sindacali, due sempre più facili, difficili da interrompere. I lavoratori ci chiedono, ma sicuro che tutte le fabbriche ci chiedono di stare assieme, ma assicuro che anche fare questo sciopero è stato una cosa prima di riuscire a far sì che venissero insieme a fare lo sciopero, è stata una cosa molto differente. Bene, questo contratto della FIAT che cancella tutti i diritti, ma li cancella in un modo che non solo cancella i diritti dei lavoratori della FIAT, cancella quello che è un diritto del lavoro in Italia. Citavo stamattina e ripeto anche a voi un fatto rispetto a due piccolissime parole di questo contratto, non ve lo sto a raccontare tutto, lo accettano perché è molto illustrativo. Due cose dice a un certo momento che il contratto nazionale integra il contratto individuale, significa ha ribaltato quello che è la geometria che teneva in piedi il diritto del lavoro in Italia. Significa che io stipulo il contratto individuale e poi ci inciso il contratto nazionale. Se no un contratto individuale non solo si fa, non è passata solo la logica delle deroghe del contratto nazionale, qui è passata la logica delle deroghe individuali rispetto a tutta la contrattazione. E su questa cosa noi sentiamo la ministro Fornero che quando qua si è messa a piangere ha detto ma lasciamo perdere, io dico per fortuna non avevo mai un telecomando perché avrei avuto la televisione, presa in giro così non mi sono mai sentita, due volte di più perché sono donna. La ministra Fornero che dice no, ma noi vi faremo il salario minimo garantito per tutti, come se fosse una conquista. Ora, il salario minimo garantito per tutti significa contratto unico, significa avere una base unica per il lavoro e per il contratto, e poi da lì in avanti si gioca tutto per tutto, che non significa giocare al rialzo, ma sempre giocare al ribasso, anche perché siccome la forbice tra il contratto che può avere metà meccanico e il contratto che può avere le cooperative di pulizia, che sono contratti che è quasi una vergogna chiamare contratti, sicuramente il contratto unico non me lo fanno col minimo del contratto del meccanico, me lo fanno col minimo del contratto, con un abbassamento del mondo della retribuzione dei lavoratori che non ha. E lo viene a parlare come se fosse la soluzione rispetto alle cose. Ora è chiaro che poi ci sono tante altre cose, ci sono il discorso dei taxisti, sono diventati improvvisamente una casta totalmente intoccabile, non ho capito cos'hanno di essere così intoccabili i taxisti. Ti parlano del discorso che hanno fatto la patrimoniale perché dicono che ci vuole l'ISE, cioè quello strumento per misurare la capacità economica di ogni famiglia per pagare i servizi, ci vuole dappertutto, ben sapendo che se tu sei un evasore fiscale la tua ISE sarà bassissima, per cui non mette dentro niente. Non contiene niente, ma proprio niente, rispetto a quanto è il discorso della lotta all'evasione fiscale, anche perché la lotta all'evasione fiscale la fanno uomini e donne in carne ed ossa, con il blocco di tutte le assunzioni del pubblico impiego ormai da 3 anni fino al 2014, vuol dire che non ci sarà più niente, perché è chiaro che se non lo fai, non, perché la cosa che hanno inserito dei consigli tributari dei comuni, che potevano i consigli tributari dei comuni fare un discorso di recupero e di verifica per il recupero dei soldi in accordo con l'Agenzia delle Entrate, è già stato tolto. Qualcuno non ha fatto in tempo neanche a partire, è già stato tolto, perché comunque si stavano attrezzando per, abbiamo scherzato, per cui anche il discorso della dell'opera io adesso chiudo perché l'ho fatta assolutamente molto lunga, dicendo che a questa manovra non si può altro che rispondere con un nome di lotte, perché lì non si può altro che rispondere così, e senza farci intimidire, perché il fatto che dico no ma dobbiamo perché sennò andiamo nel caos, ma io dico ma più caos che adesso, dove non hai soldi, non hai certezza, non c'è lavoro, i giovani chissà quando riusciranno a uscire di casa, cosa ci aspetta al di fuori, e soprattutto il clima di odio, di aggressività, di xenofobia, di razzismo che sta passando, ma non solo tra gli esaltati, sta passando dalla media borghesia, che è quello che fa più paura, perché i foscaioli stanno alzando tutta la testa e stanno perseguendo una politica di paura e di sfiducia nelle persone che fa veramente paura. Basta, io chiudo perché penso di aver fatto, di aver detto e di avermi annoiato a sufficienza, lasciamo. Prosegue inesorabilmente nella sua realizzazione con il progressivo arricchimento di chi detiene ora il capitale e il progressivo impoverimento delle classi subalterne, con il rafforzamento e il consolidamento del sistema e il rafforzamento e il consolidamento del ruolo di servi del capitale, con tutto il rispetto che ho per i lavoratori, che ormai ricoprono le lavoratrici e i lavoratori. Il dirottamento degli investimenti nei paesi sottosviluppati con lo sfruttamento schiavistico della forza lavoro, licenziamenti e la chiusura delle aziende nei vecchi paesi capitalisti, il crollo della domanda e la conseguente recessione, e hanno il coraggio di parlare di una eventuale ripresa. Ma come può esserci ripresa col continuo impoverimento delle classi subalterne e il loro ormai insufficiente potere d'acquisto? Mi fanno sorridere questi falsi difensori del popolo che si danno da fare per migliorare i provvedimenti adottati da un governo che non ha rappresentanza popolare e che assolve egregiamente il suo compito di servitore del capitale e del privilegio. Tutti i provvedimenti che rappresentano le falle del sistema che fa acqua da tutte le parti e che servono solo a prolungare il processo, speriamo per suo disfacimento. Il sistema capitalista infatti si sta avvitando sulla sua contraddizione con un cane che si morde la coda, una spirale di continuità, una vita senza fine che lo conduce inesorabilmente al suo disfacimento a causa della sua aberrante logica di dominio. Non vuole ammettere che per produrre la ricchezza è dipendente dalla forza lavoro, e la forza lavoro quindi deve poter partecipare al movimento della ricchezza prodotta a parità di diritti. Ma fortunatamente sarà lo stesso sistema capitalista con le sue contraddizioni a provocare una situazione in cui ci saranno finalmente le condizioni per una possibile completa formazione delle rivendicazioni delle masse lavoratrici per l'avvio di un'apertura al socialismo. Dobbiamo preoccuparci quindi che le masse lavoratrici non arrivino impreparate ad approfittare di quella situazione. Dobbiamo lavorare per avviare una rivoluzione culturale indispensabile perché esse riprendano coscienza della loro identità di classe. Dobbiamo riuscire a trasmettere loro un input classista. Si tratta del trionfo della democrazia e della giustizia sociale. All'inizio mi sono dimenticato di dire alcune cose circa i provvedimenti adottati dal governo Monti, limitandomi per limitare la lunghezza del mio intervento, limitandomi a indicare solamente i provvedimenti che avrei ritenuto necessari prendesse un governo non allineato alle classi dominanti. Ovviamente la riduzione drastica delle spese militari. E poi la ICI solamente sulle prime e seconde case di lusso, fatti salvi i piccoli risparmi, la tassazione delle grandi rendite, delle rendite finanziarie, la stessa misura adottata per tassare i redditi da lavoro. L'evasione fiscale non più considerata un reato amministrativo, ma una nuova legge che la identifichi come un reato penale. Chi evade va in prigione, punto e basta. Negli Stati Uniti dove esiste questa legge, l'evasione fiscale non esiste, perlomeno non esiste sistematicamente come in Italia. Non toccare assolutamente le pensioni e tassare adeguatamente i grandi patrimoni. Termino chiedendo al compagno che interverranno per chiudere questa assemblea di voler commentare i vari interventi che si susseguiranno nel corso di questa assemblea, finché noi della base, noi del comitato politico, si possa cominciare a pensare che non parliamo al vento, si possa cominciare a pensare che forse riusciamo a incidere, seppure in maniera modesta, alla costruzione della linea politica del partito. Quando devono essere fregati sono molto rigorosi ed attenti, no? Io volevo dire due cose, no? Volevo portare un esempio di quello che è la realtà e poi fare una domanda che è anche di sé una risposta. Uno, la domanda è l'esempio è quello di una famiglia, no? Di cui conosco abbastanza bene e non so, non vorrei essere eccessivamente banale, però in questi momenti magari anche la presunta banalità ha un senso, no? Una famiglia che è composta da marito, moglie e una figlia o un figlio, la moglie insegnante, il marito pensionato, la televisione parlavano di circa 1.100 euro di nuove tasse, no? Invece questa famiglia che mi ha spiegato questa situazione si è accorta che probabilmente è molto ma molto di più. Innanzitutto questa finanziaria, se si può definire, viene dopo altre due, no? E oltre a quella che c'è stata prima, e avanti, avanti, avanti, no? Ebbene, non ha avuto un aumento salariale in quanto insegnante di 160 euro dopo 11 anni di lavoro, il marito non ha avuto l'aumento della pensione in quanto ricco, perché supera i 1.400 lordi, e di conseguenza paga anche la tassa sulla casa. E magari paga anche la tassa sulla seconda casa, in quanto ricco, avendo avuto la fortuna o la sfortuna, che è morto il padre e ha ereditato metà casa, no? Questa è la situazione di questa famiglia, pagherà parecchie migliaia di euro l'anno prossimo o quest'anno, in più perché tu mi hai detto che mi fa incazzare ancora di più, no? Perché questa andrà sulla pensione. Ecco, questi sono gli esempi che i grandi economisti logicamente se ne guardano bene da fare, mentre altre persone che ho sentito parlare andando lì sul lago, avendo la fortuna di abitare in uno dei posti più belli del lago, mi hanno detto: io, avendo fatto il parlamentare per 11 anni ed essendomi sbattuto per la sinistra, è solo parecchi anni che prendo 5.650 euro al mese netti, perché dopo lì non dicono il lordo perché fa anche pena, no? Dire che sono circa 8.000 euro. Ecco, questa è la realtà di un'Italia che sta venendo avanti. Non vado oltre, ognuno la può pensare che è una banalità, può essere un esempio che è banale, ma di questi casi ce ne sono tanti, non voglio entrarmi poi dei lavoratori e cose di questo genere. Ma una domanda vorrei fare, ma siamo ancora in un paese democratico? Ebbene, abbiamo i parlamentari che non sono eletti dal popolo, ma sono nominati, abbiamo un Parlamento che non è più un Parlamento eletto con un programma e con dei parlamentari nominati, ma è caduto dal cielo. Abbiamo una realtà nelle fabbriche drammatica, no? In cui il più grande sindacato confederale non può più esprimersi, non può più avere delegati tra 85.000 dipendenti, e questo comporta, ha detto la sua segretaria, una persona veramente encomiabile, una perdita di 1.000.000 di euro. Ieri sera in un'intervista ha detto: ho scritto un libro, oltre ai diritti darò anche quello che guadagno in questo libro. Io vorrei invitare qualcuno, magari per Natale, visto che si fanno dei regali, di acquistare il libro che ha scritto Maurizio Landini, se non altro, oltre che per imparare, no, perché c'è sempre da imparare leggendo un libro, anche per dare qualche cosa alla Fiona, perché mi sembra che è un modo corretto di interpretare queste festività così consumistiche. Ecco, io mi chiedo, è stata eliminata anche la provincia. Quello che dicevi tu è vero, ma però anche qui viene ridotta la rappresentanza di tutti, no? Si metterà lì qualcuno, chi sarà? L'ennesimo tecnico eletto dal PDL o dalla Lega, perché qui siamo in questa zona, no? In compenso questa sera, questa è l'ultima che ho sentito, il compagno Bersani, incavolato nero, ha detto, il compagno finalmente incavolato, ha detto questa sarà l'ultima finanziaria che non voteremo. Dopo troveranno un muro. Non siamo qui a schiacciare i puntini neri di Maggiolini, quindi volete dire che lo dice ripetutamente, no? Imitando in un modo farsesco anche in Berlusconi. Ecco, ebbene, io volevo solamente dire questo. Un esempio e una domanda. Siamo ancora in un paese democratico? Io penso proprio di no. La democrazia penso che sia molto molto lontana da questo. Veramente, sono molto preoccupato di questo, sia per il futuro delle nuove generazioni, in quanto non appartengo più sfortunatamente, sia anche perché vivendo in questo stato, vivendo in un paese antidemocratico o ademocratico, è molto difficile. L'ultimissima cosa, la sinistra, quando ci metteremo in testa che con questa gente è difficile fare accordi anche di governo? E dopo Supino ce lo spiegherà bene, anche quello che succederà a Como, no? Io credo che la sinistra, al di là delle ennesime primarie, che ne ho piene le palle di parlare di primarie, perché ormai si parla solo di primarie e mai di programmi, anche questa è una forma antidemocratica di esprimersi. Credo che al di là delle primarie, al di là degli imponitori, al di là di chi racconta poesie e racconta anche balle, perché poi, diciamo, fuori dai denti, il Don Berzè non è solo a Milano, è anche in Puglia, perché dopo quando girano i cordoni, come dice Mauro, no? Ebbene, io volevo solamente dire questo in un modo confuso e raffazzonato, un po' che pensavo questo, e vorrei che si tenesse conto anche di queste piccole situazioni, oltre che dell'enorme situazione e di questo stato antidemocratico o ademocratico. Vi ringrazio. Prima di darvi comunicazione di servizio rispetto alla questione della situazione, la preparazione della campagna amministrativa e come andare ad affrontarla, io però qualcosa la voglio dire rispetto all'ordine del giorno, perché credo che il ragionamento che ha fatto la Lucia va nell'indirizzo di far comprendere le misure e che risvolti politici hanno. Ma però dobbiamo partire, io credo lei non lo poteva fare proprio perché gli argomenti sono tanti da entrare in merito, e che noi dobbiamo partire un attimo dalla discussione che c'è scritto lì. La crisi la paga chi l'ha creata. Cioè chi è che ha creato questa crisi? Da dove è nata questa crisi? E senza farla lunga, voglio dire, tanto per intenderci, le banche e il sistema che non sta più in piedi, un sistema capitalista, chiamiamolo globale, chiamatelo come volete, ma è un sistema che non regge più. Cioè un sistema che non regge più, con uno stato sociale che si era andato a creare con difetti, limiti e quant'altro. Questo era uno stato sociale che c'era, senza esaltarlo, ma era questo che avevamo di fronte. Beh, non regge più questa situazione in questi tempi. E allora di fronte a questo c'è il ragionamento da fare, quando il Vigini si domandava: ma siamo in uno stato democratico? No, caro Vigini, siamo in una fase diversa di quelle del passato, anche se in passato non possiamo dire che eravamo in uno stato veramente democratico, ma sostanzialmente perlomeno le elezioni, le persone che tu votavi, le persone che dove decidevano, perlomeno erano votate dai cittadini. No, qui siamo commissariati come popolo, come popoli, tanto per intenderci. Perché dico questo? Perché io credo che dietro a questa crisi si sta una rivincita del capitale sul lavoro. C'è una rivincita del capitale sul lavoro. Allora la rivincita del capitale sul lavoro, io credo, bisogna analizzarlo e per poi combatterlo, perché la prima cosa che dobbiamo fare è non rassegnarci. Perché se crediamo alle balle che ci dice Bersani o chi per esso, date per intenderci, questa è l'ultima, ma mi sembra che quelle due prima, in nome della consapevolezza della crisi, la facciamo passare subito, non facciamo nessun emendamento e pertanto questa è la strada che hanno dettato. Io credo che così non daremo mai una risposta su due punti. Uno, perché c'è lo smantellamento dello Stato sociale per quelli che l'abbiamo conosciuto, e quindi quanti i suoi difetti, ma sostanzialmente però ci stanno portando via quella parte buona, quella parte che noi siamo riusciti a conservare sotto il punto di vista delle lotte che abbiamo fatto sulla democrazia, l'articolo 18 e quant'altro. Su queste cose qui noi siamo riusciti a resistere con i limiti e con tutti i difetti di questo mondo. Beh, noi siamo di fronte a questo, il fatto che di fronte a questo scontro e che stanno mettendo paura ai cittadini, stanno mettendo paura ai cittadini, e i cittadini di fronte a questa spauracchio che mi portano ieri quanti soldi risparmiati, cose di questo tipo, che siamo sul mondo del precipizio, ma però cosa fanno? Non è che dicono mettiamo mano le nostre tasche, no, le tasche degli altri. E allora questo è il fatto che la crisi non è poi così drammatica sotto questo punto di vista. Non è così drammatica, perché se fosse drammatica anche loro avrebbero da perdere se crolla tutto. Ma sostanzialmente io credo che loro sanno benissimo che questa è un'opportunità loro uscire da questa crisi per far pagare i ceti popolari le battaglie che hanno fatto in passato. Allora qui è un punto. E questo vuol dire chi si rassegna rispetto a questo ragionamento ha delegato alla BCE. Noi abbiamo imparato lo spread, come si chiama, ogni tanto alla sera adesso quando arriva il telegiornale speriamo sia abbassato lo spread. Non ci accorgiamo che quando andiamo a fare la spesa mettiamo in quella legata tra l'altro, che non serve più la nostra pensione, la nostra busta paga veramente viene svuotata e non si fa più in tempo. Arriva alla fine del mese, ma chi poteva farcela prima? Perché siamo in una situazione di questo tipo. Allora quando il messaggio mi dice lui lo fa per l'Italia, io gli voglio domandare bene, ma per quale Italia? Questo è il vero problema. E allora non mi voglio dilungare su questo, le strade potevano esserci, non è che era una fatalità che sempre bisogna andare a prendere da quelli, non è una fatalità. La questione della patrimoniale adesso la stanno facendo diventare una barzelletta. No, ma anche Montezemolo che era d'accordo sulla patrimoniale, Della Valle era d'accordo sulla patrimoniale, oggi non ne parla più nessuno, tutti d'accordo. Io ho detto questo non si farà perché sono tutti d'accordo. Noi abbiamo raccolto le firme in piazza, noi siamo andati a raccogliere le firme in piazza, guardate, siamo venuti via dalla raccolta delle firme, dove la gente la sentiva questa cosa qui. Altre volte magari ci buttavano via il volantino, no, firmare, perché la patrimoniale è giusta, che anche questi pagano eccetera. Sostanzialmente io credo che questo è il modo, e non si è fatto niente. Lo scudo fiscale non facciamoci più prenderci, è una farsa diventata questa. Non vogliono rompere il patto, che è una cosa vergognosa. Io rompo il patto con i cittadini, con i pensionati, dove io gli do la pensione e gliela devo indicizzare per quella parte minima che veniva. Gliela devi, no, con i pensionati rompiamo il patto, ma non rompiamo il patto con gli evasori, perché gli abbiamo detto che non devono pagare più di tanto e basta, se no lo Stato perde la faccia. Queste sono le cose. Allora, da questo punto di vista noi dobbiamo rivedere tutta la nostra strategia, perché se prendiamo per la coda alla fine ci mordono sotto questo aspetto. Allora non voglio entrare su questo, la battaglia patrimoniale, la questione del bombardiere, 15 miliardi noi spendiamo in una crisi di questo tipo, 15 miliardi per acquistare il bombardiere, queste opere inutili, perché dobbiamo dirlo, l'attacco, il ponte sullo stretto sono opere inutili, che questi soldi possono essere investiti per il trasporto pubblico regionale, locale, che i cittadini hanno più agibilità, invece lo vediamo sempre tagliare le corse e vediamo sempre aumentare i biglietti. Allora io credo due cose, non ha detto la Lucia sulla questione dei tagli agli enti locali. Guardate che oltre a quelli che hanno fatto prima ce ne sono qualcosa come 5 miliardi e corso. Questo ricade sugli asili, ricade sotto l'aspetto dei servizi alla persona, ai disabili, tutta una serie di servizi che gli enti locali, la regione, gli enti locali che voglio dire supportano le famiglie al disagio sociale, questi vengono decurtati ulteriormente su questo aspetto. E l'altra questione, abbiamo appena votato, ma chi ci dà retta? Quando giustamente Figini si domandava questo, ma chi ci dà retta sotto il punto di vista, abbiamo fatto un referendum, una battaglia enorme di partecipazione della gente, e tutti noi sentiamo che i beni comuni non vanno toccati, la privatizzazione dell'acqua non va fatta, la privatizzazione dei servizi pubblici locali non vanno fatte, e noi abbiamo qui un decreto di cui votato adesso il Parlamento, votato il Parlamento, dove dice tutto il contrario. Qui c'è la democrazia, non la democrazia. Quello che c'era prima, che non era il massimo della vita, quello che c'era prima è stato sospeso anche quello. Allora noi, guardate che noi questo aspetto qui ce la troveremo fra un po' di mesi, perché sono tutte cose dilazionate, perché quelle che hanno votato oggi non ce l'abbiamo sulla busta del PAC, non l'abbiamo ancora sulla pensione, non l'abbiamo ancora sui servizi. Quando ricadranno su questi? Noi dobbiamo lavorare in mezzo alla gente in questo, perché una svolta, un'operazione diversa era possibile. E allora abbiamo elencato le cose. Allora invece hanno dovuto andare a prendere là dove sono sicuri a prenderli e dove là poi alla fine c'è la consapevolezza che se li facciamo spaventare un po', questi si arrendono. Ecco, noi abbiamo vissuto questo da un ventennio, un trentennio da questa parte. Beh, io credo che se andiamo avanti con questo atteggiamento, qui non è questione di democrazia. Qui siamo dei sudditi, che è una cosa ancora peggio sotto questo aspetto. Ecco, io credo che sotto il profilo della battaglia che dobbiamo fare, abbiamo una strada davanti, un'autostrada per poter lottare. Però quelle che ci deve sempre tenere presente che le lotte e le iniziative che dobbiamo fare sempre in un aspetto, tentando di fare l'aspetto unitario, cosa che è molto difficile in un momento come questo, perché c'è il ragionamento si salta di voi e c'è un ragionamento noi vogliamo che tu li paghi ma io no. Allora c'è sempre sotto questo aspetto. Allora invece noi dobbiamo dire che questa crisi, questo modo di governare internazionale a livello europeo soprattutto, è una situazione che non si salva nessuno. I ceti popolari non se ne salva nessuno sotto questo aspetto. Allora noi da qui dobbiamo ripartire, rifar credere alla gente che non è possibile non bisogna rassegnarsi, ma che una svolta è possibile. Ecco, io su questo, sull'argomento dell'ordine del giorno termino su questo e poi volevo dare la notizia, ma la cavo in 4 minuti, la notizia è che abbiamo avuto un confronto. Voi sapete che non abbiamo partecipato alle primarie, perché noi abbiamo detto che le primarie sono un fatto importante se sono primarie di programma, perché lui sa scegliere il candidato con un suo programma che poi sarà supportato, sarà anche modificato, ma che c'è un programma. Noi qui a Como sono venute delle primarie che senza programmi, ognuno ha detto la sua durante le varie interviste, ma che comunque senza programmi. Noi non ce la siamo sentiti di affrontare un ragionamento di questo tipo, abbiamo detto quando ci sarà alla fine primaria il candidato che ha vinto ci confronteremo su questo. Voi sapete che ha vinto Mario Lucini, il capogruppo del PD, ma però non è scritto al PD, al Comune di Como. Sostanzialmente cosa è che è avvenuto? Lui nelle sue dichiarazioni che ha rilasciato fino a un po' di giorni fa c'era un'aspettativa di un confronto programmatico, perché noi abbiamo chiesto un incontro di fare un confronto programmatico. Bene, non me la faccio lunga, siamo andati all'incontro, l'abbiamo fatto nella sala del Consiglio Comunale di Como, siamo andati all'incontro, noi abbiamo esposto quelli che abbiamo voluto dire, che le giunte devono essere formate al 50% delle donne, che la questione dei servizi, beni comuni vanno difese, la questione della democrazia partendo dal monumento della resistenza di Como e partendo dal fatto del che come la città è una delle 50 città del mondiale riconosciuta dall'ONU come messaggero di pace, cioè in sostanza abbiamo messo lì una serie di cose, cioè tutto che per un confronto noi la risposta che abbiamo ricevuto è che hanno un problema a confrontarsi con noi, hanno un problema, perché la loro coalizione è una coalizione che crea problema aver dentro la federazione della sinistra. Poi nel dibattito eccetera abbiamo un po' sviscerato le cose, la contraddizione loro era molto forte su questo e l'imbarazzo c'era tantissimo, perché quando hanno detto che anch'io poi ho votato non sempre conforme con loro eccetera, poi gli ho fatto notare ma perché allora c'è questa segnalazione nei miei confronti che io so che loro erano un po' sofferenti su questo, ma perché lo dite a me di questo quando anche Botteni e la Mazzorata e la lista per conto, per intenderci, anche loro hanno votato con me, si sono incatenati insieme a me, abbiamo fatto una serie di battaglie insieme, quelli invece li andate a cercare. Allora il problema, cari compagni, cari tutti, il problema è la faccia e il martello. Allora noi faremo adesso una riflessione, questa è una comunicazione, faremo una riflessione al nostro interno per poter affrontare una campagna elettorale dove la parola d'ordine, come abbiamo detto al congresso, pane e cipolle ma dignità. Ecco, allora noi affronteremo la campagna elettorale, questo non abbiamo paura di andare da soli, ma che comunque è sbagliato. Noi volevamo mandare a casa il centrodestra, volevamo mettere in atto una politica unitaria, un fronte, chiamarlo popolare, rispetto al centrodestra che ne ha fatte di porte di gruppi in questa città, ma purtroppo c'è stato risposto in questi tempi. Noi non siamo disponibili a mollare il nostro simbolo, le nostre idee. Siamo andati a volantinare a Erba l'altro giorno e mi sembra sembrava, di solito sono io quello che tira il gruppo, grazie per tenere buoni le signore che andavano a litigare con quelli che non prendevano i volantini, quant'altro. Cioè, la fabbrica sta lottando, vogliamo tenere alto il livello e, ripeto, non vogliamo farci strumentalizzare da nessuno. Non metteremo bandiere, non metteremo sigle, non metteremo niente. Questa è la fase 1, nel senso che questa è la prima fase di conoscenza. Poi, ovviamente, qui manca una parte grossa che si chiama CGL, CGL Will. Ripeto, si stanno rimbalzando le cose nel suo mezzo. Non abbiamo intenzione di perdere il posto di lavoro perché la CISL, la CGL non hanno un accordo, non trovano un accordo con l'azienda. In faccia all'azienda, giovedì sera, ripeteremo la nostra posizione che non vogliamo, cioè vogliamo che l'azienda si muova con chissà che crisi, che lo sta facendo. Siamo una delle poche aziende che quando fai buchi li ripristina. Abbiamo un laghetto, non so se siete mai stati lì, alle cose di Baggio, viene utilizzato dalla popolazione e quant'altro. Quindi ripeto, se venite, perché la manifestazione del 22 deve riuscire. Se faremo un derby così ci massacreranno, perché già siamo strumentalizzati, dicono che siamo dei ruffiani dell'azienda perché andiamo in giro volantina nel mercato e tutte queste cose. Noi sinceramente sta roba non ci frega. Ripeto, abbiamo famiglie, adesso parto con la parte politica. Se attaccate tutto insieme a quello che è stato adesso stasera, con la mia situazione, guardate che la vedete veramente nera, nel senso che qualcuno mi ha detto in questi giorni, se andate indietro negli anni, la cementeria di Verona era come l'FS o De Nord o quant'altro, poi era un punto di riferimento per il territorio. Chi andava a lavorare in cementeria aveva il posto assicurato per gli anni, per l'avvenire. Gente che 40 anni che lavora dentro, gli manca tanto così per andare in pensione, ma si trova in marasma, con tutto il rischio che di questa manovra del cavolo che sta fatto prima Berlusconi, Monti e chi verrà dopo di lui, siamo nel caos. La gente ha paura. Guardate, compagni, che essere in una situazione di una fabbrica che ha due o massimo tre anni di vita, con quello che c'è in campo, io vi dico che i brividi nella schiena diventano. Guardate che avere gente con tre figli, un mutuo da pagare, la non sicurezza del futuro, cioè vedete delle cose che veramente vi si accapuano la pelle. Noi siamo stati come RSU sulla battaglia della INSE, siamo stati siamo stati una settimana con i compagni, abbiamo sempre dato solidarietà a tutti e sappiamo quello che c'è in campo, sappiamo come muoverci. Faremo tutte le cose lì, però ripeto, guardate che la situazione è grave, sia la parte politica che la parte, cioè, la finanziaria, tutte queste cose, se le mettete insieme, guardate che stanno creando una situazione esplosiva. Quello che voglio segnalare io alla rifondazione e ai compagni stasera, che io non so fin quanto le persone staranno nella cesta. Perché prima o poi la gente esplode, perché qui si sta parlando, il compagno Figini diceva che non siamo in un partito democratico e Supino ribatteva la cosa. Per me questi non hanno il senso del paese. Sono abituati a vivere nella parte alta della piramide del paese. Sono dentro in una bolla dove vedono e si confrontano tra di loro. Perché gli operai erano dentro lì in Parlamento, a parte quella signora che è stata invitata dalla Lega, che sta strumentalizzando, dopo qui faccio un passaggio sulla Lega. Allora, a Roma dicono che è il partito del lavoro, a Lecco no, alla Camera. A noi ci fa comodo, perché sinceramente avere dal mio fianco la Lega mi farebbe girare come i coglioni. Però questa cosa mi fa piacere, nel senso che si esprimono contro di noi e abbiamo un punto di riferimento, perché nella mia fabbrica molti lavoratori votano la Lega. Oggi sono andato in giro e gli ho messo sotto il naso, guardate, questo è il vostro partito che dice che difende i lavoratori, li porta in Parlamento e poi ce lo mette nel culo a noi che siamo lontani, siamo 500 persone per non portare il lavoro. Queste sono delle contraddizioni enormi. Io non so come facciamo a non fare saltare fuori sta roba. Sono stati per gli ultimi 10 anni, sono stato 8 anni al governo. Hanno combinato di ogni contro i lavoratori, di ogni. Sono stata la sponda politica di Berlusconi, e in parte di Monti, perché la manovra che doveva fare Berlusconi l'ha passata a Monti, perché è quello che è andato solo a proporre al Parlamento europeo quella roba qui. Adesso ce la troviamo sui denti, mo siamo diventati i salvatori della patria e noi stiamo lì e non facciamo esplodere le contraddizioni della legge. Veramente è una cosa indegna quello che stanno facendo. Ripeto, per me la situazione è esplosiva, perché io non so, se fate conto Noi guardate, dalla nostra fabbrica abbiamo un lavoratore del sud. Questi problemi della pensione non ce l'hanno, perché i contributi non li riescono. Il problema loro è il lavoro. Molti di questi fanno, per 6 mesi lavorano nei comuni della regione, vanno a pulire la sila, vanno a fare questi lavori socialmente utili. Il resto dei mesi vanno a lavorare in nero e ci ritroviamo qua a nord a fare determinate cose. Se questi vi staccano la spina, questi non ce la fanno a vivere, ragazzi. E che faranno queste persone? Il sud per me è un po' estremamente. Quindi la rivolta deve essere una rivolta culturale e sociale. Bisogna far capire alle persone, perché anche l'altro giorno abbiamo fatto sciopero, però anche lì non si può organizzare degli scioperi in una fabbrica di 270 persone, non viene nessuno della CGIL, non viene della CGIL a spiegare perché si fa lo sciopero. Cioè, io sono stanco di tutte le volte che devo fare lo sciopero, anche perché gli ultimi 5 erano della CGIL, e fare io l'assemblea e lo funzionario che non entra per tutti questi bizantinismi, qua che cazzo c'è la CGIL, non puoi fare quella lì. Questo sciopero unitario non c'è venuto nessuno. E come nella mia fabbrica e in tante altre. Gli scioperi devono riuscire. Qui bisogna mobilitare le masse contro quello che stavamo dicendo prima. Poi l'ultimo poi la faccio finita. Guardate che faccio parte, ve l'ho detto 100 volte. Il rischio grosso che i top manager della mia azienda dicono che probabilmente scoprirà la seconda fase recessiva della crisi. Hanno paura e non sanno loro cosa fare. Quindi le aziende come la mia, 80.000 dipendenti nel mondo, non sanno come muoversi nel mondo, perché hanno paura di fare, di sfasciare il vaso di coccio che ci sono dentro. Non sanno quali sono le politiche future. Quindi guardate che il rischio è grosso. Cerchiamo di mobilitare le masse e portare dalla nostra parte. Abbiamo bisogno di una rivolta veramente seria e fatta bene, perché la gente deve capire che qua è inutile che noi continuiamo a pagare e poi non possiamo andare a toccare i capitali scudati. Ma l'ha fatto tutto il mondo, cioè l'ha fatto la Germania, l'ha fatto altri paesi, perché noi non possiamo. Non possiamo andare a toccare le cose dei parlamentari. Ma com'è possibile che uno fa 2 anni di legislatura, si prende 3.000 euro e un operaio si fa 40 anni che sono sufficienti e si deve fare 50 anni? Io personalmente dal 2018 mi sparo 14 anni in più di pensione. E come faccio a resistere a una roba del genere? Non lo so, io la rivolta io sono pronto a fare la parte. Per fare un attimo il punto della situazione, io ho iscritto adesso Domenico e Stefano Ronnoni. Chi altro? Per più che altro vedere la tempistica. No, io vorrei dire una cosa che diceva tutto un dibattito, sono stato fra me.